Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Se la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Certo, Milan, devi avere delle meravigliose qualità nascoste, perché quelle che si vedono fanno un po' cacare. La signora Veronica legge benissimo. Potrebbe, sì, fare l'attrice e lasciar stare con la radio. Oppure, appunto, leggere alla radio cose scritte da altri. È un'idea fantastica. Buongiorno a tutti, Marco Taxi da Roma. A Veronica, ma che a Cuba? Ma via a casa mia, vie. Ancora con Cuba. Mamma, vuoi cantare una canzone, sì o no? Eccoci qui, volevamo un po' di critiche e le critiche sono arrivate, puntuali, alle 9 minuti. Veronica, allora, intanto buongiorno. Volevo chiedere alla signora se gentilmente mi fornisce un suo testo. Bene, infatti. E così gentilmente me lo spedisce e io volentieri lo leggo. Sono tutta orecchia e non vedo l'ora di sentire che cosa scrive la signora per poterle dare voce. Esatto, perché se uno fa un'accusa la porti fino in fondo. Presenti un testo e poi dopo ci scritto testo, il suo pugno. Volentierissimo leggo tutto quello che la signora scrive, ho grande piacere. Allora, i funamboli sono tornati, eh. Oggi c'è Carmelo Lauricella in regia qui a Milano. Chi c'è lì in regia a Roma? Chiappinis. Alessandro Chiappini. Alessandro Chiappinis. In redazione salutiamo i nostri Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi, sempre lì puntuali, perché Veronica, oggi vogliamo ripartire proprio da quello che abbiamo affrontato anche ieri, le accuse a Brizzi, il regista siamo italiano. Enormemente sul pezzo, su quello che sta accadendo, che in qualche modo è imperversa nel dibattito collettivo per tutta una serie di ragioni, alcune secondo me ci sono anche un po' sfuggite di mano, tipo non so se hai visto che adesso esistono anche i test sui giornali per vedere se si tratta o meno di molestie. C'era ieri sul Corriere della Sera una specie di piccolo tutorial in cui si spiega quei disegnini. Questa è una mano molestia sul ginocchio. Questa qui secondo te è una molestia? Riconosci la molestia? Ora c'è anche il glossario delle molestie. Andando con ordine, però, oggi sui giornali troverete, tutti i giornali riportano gli stralci di una lettera che la moglie di Fausto Brizzi ha scritto a tutti i vari quotidiani, prendendo le difese del marito, dicendo viene trattato come il peggior criminale. Dice anche io e mia figlia rinchiuse in casa barricate da 5 giorni subiamo una sorta di violenza nei confronti di 2 donne perché non possiamo neanche mettere fuori il naso che siamo paparazzate, inseguiti. Lo difende, c'è da dire che però ci sono altre accuse. Oggi per esempio la doppiatrice Rossella Izzo, che ha una scuola di doppiaggio, dice ha molestato una ragazza, anche qui non l'abbiamo più chiamato. Insomma, da una parte aumentano le accuse, dall'altra parte le difese. Poi in realtà c'è un'accusa che mi ha colpito particolarmente, che è quella di una tatuatrice, sempre nei confronti di Brizzi, che dice, questo mi colpiva, che tentò di denunciare, che andò appena uscita di lì, ha presentato un esposto, e le risposero che non c'erano le prove e non si poteva dunque agire. Quindi anche lì si ripropone lo stesso problema, no? Anche quando uno dice denunciate, sì, però non c'è poi l'automatismo del fatto che la cosa venga provata o che poi ci sia un esito. Poi si è parlato molto, e da qui ripartiamo anche con il parere degli ascoltatori all'800 24 00 24, sulla cosiddetta, noi ieri l'abbiamo definita anche un po' ipocrisia, di chi ha fatto fare un film a Brizzi quando le accuse non erano ancora note, e ora la Warner farà uscire questo film, cioè non l'ha ritirato, lo farà uscire ma con il nome occultato, insomma senza dire che il regista è lui. Senza, ecco, firma sostanzialmente, sì. Una situazione un po' strana, un po' insolita. Sì, la giustificazione insolita che viene addotta è quella che un film ci ha lavorato tanta gente, che comunque è un prodotto commerciale che ormai è stato fatto e portato avanti, ma a quel punto uno dice, come ci dicevamo ieri, se decidi di farlo uscire lo stesso, a quel punto ti assumi tutte le responsabilità e lasci il nome, altrimenti andrebbero cancellate, come dicevamo ieri, metà delle opere d'arte in tutti gli ambiti che esistono. Se volete scriverci anche SMS o WhatsApp audio 349-238-6666, partiamo perché i primi due funamboli sono già con noi, uno è da Hollywood e uno invece è più vicino a noi fisicamente in Italia. Partiamo da qui. Thank you. put pictures of places in frames. I remember someone's face, but then I forget their name. Ma intanto ritroviamo con piacere a Selma Dell'Olio, giornalista, critica cinematografica, italo-americana. Buongiorno e ben ritrovata Dell'Olio, grazie di essere buongiorno, qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da Hollywood invece, o meglio è andato a Hollywood dopo 20 anni in Italia, è un produttore che a Hollywood si è fatto le ossa, nel senso che ha dovuto sgomitare come è in quell'ambiente, immagino molto competitivo, ma ha trovato una sua strada, è Oscar generale della Oscar Generale Production. Buongiorno generale, grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Che tra l'altro da su noi... Facebook ha fatto anche un post dicendo offro una parte in un film internazionale a chi farà il nome del regista. Poi il nome è arrivato generale. Sì. Il nome è arrivato, io non mantengo comunque le mie promesse. Voglio precisare comunque una cosa, intanto saluto tutti quanti e tutti gli telespettatori, scusatemi del mio italiano che ormai piano piano lo sto dimenticando. Non lo dimentichi. Comunque, io ho seguito molto, l'ho presa anche di cuore questa avventura, tra virgolette. E ho anche seguito queste ragazze che in teoria hanno fatto il nome in pubblico. Sì. Ho seguito molto sulla parte dei social, li ho viste su Instagram per vedere, no, con chi, dove doveva andare a parare. Sì. Però le attrici, vedendo dalle loro foto su Instagram, secondo me, voglio dare anche un attimo un consiglio alle attrici. Non possano proprio tutte queste belle foto, il 99% osè. Che ci sta dando un giudizio su... sulla qualità, no, aspetta, delle foto. Io mi sono un attimo persa, nel senso dice sono un attimo disorientata. Cioè che mettono delle foto un po' troppo discinte e allora foto, sì. No, è Anselma Dell'Olio, non lo so che cioè, Anselma Dell'Olio. Mi sembra lunare questo dialogo, lunare. C'è una cosa da dire. Sulla togliere il nome e far uscire il film. In America non fanno proprio uscire il film, non è che tolgono il nome, sì. Hanno paura perché la gente sa che tutto si tiene, quindi se esce un film si sa di chi è, tanto più che è stato su tutti i giornali. La questione non è né ipocrita né prude, è una questione meramente commerciale. Hanno paura che la gente boicotti il film perché c'è l'accusato di mezzo. Ma tanto lo sanno che l'ha fatto. Appunto. Gli italiani fanno le cose a metà. Invece in America sospendono proprio il nuovo film di Michael Shannon e di Benedict Cumberbatch. L'ha detto Michael Shannon alla festa di Roma, bellissima, che è appena finito. E lui ha fatto un film che io aspettavo. Sui due titani dell'elettricità, George Westinghouse e Tom Edison, non esce, non esce perché è di Weinstein. Quindi per adesso è sospeso sine die, poi forse uscirà, ma non si sa quando. Quindi, ma per esempio, Anselma, tu che cosa pensi del fatto che Ridley Scott abbia deciso di rigirare le scene in cui c'era Kevin Spacey mettendoci Christopher Plummer? Ripeto, è una questione meramente commerciale, non è pruderie. Non è che questa è tutta gente navigativa. Non è il puritanesimo americano. No, il puritanesimo non c'entra niente. No, perché allora in Italia non c'entra niente il puritanesimo. Non c'entra. E da una parte questo di togliere il nome, di togliere le facce, di eliminare le persone è una questione commerciale. Purtroppo puzza da lontano da Unione Sovietica, dove quando c'era era in disgrazia un si toglievano le foto, ecco. Così come nel grande quadro di Guttuso sui funerali di Togliatti non ci sono personaggi importanti come Trotsky, è la stessa cosa, le persone sgradite non ci sono. La domanda allora, anche è un po' questa, è una cosa che ha senso poi questa specie di censura postuma o post gloria in qualche modo quando una persona cade in disgrazia? È un calcolo commerciale, lo sapremo quando questi film poi escono. Lo sapremo dopo, è un calcolo commerciale. Però Anselma Dell'Olio rideva molto insomma della posizione di generale, però vogliamo approfondirla. Cioè, perché generale... questo concetto, cioè se uno posta delle foto in qualche modo molto discinte, osè, sensuali, allora, induce ad essere trattata... Scusate, voglio fare una netta divisione qui sulle attrici che denunciano le avance, che non, per, adesso non lo so, su Fausto Brizzi non posso parlare, perché solo due sono venute fuori, in America venivano a decine per questa gente, quindi non posso parlare di quello, però per le attrici in generale, proprio perché loro quando dicono io non capivo più niente, adesso parlo di queste cose degli italiani, non capivo più niente, ero soggiogato, cioè, ma che vuol dire? Vuol dire che sei stato cresciuto male? Perché basta dire di no, questi non è che gli tenevano la pistola puntato contro, no? Sì, che è quello che anche nella lettera è sgradevole, l'avanzo pesante è sgradevole, è brutto, è mira ad umiliarti, a renderti incapace di reagire, ma se sei incapace di reagire perché non hai però, le idee chiare. Oscar Generale, che Weinstein tra l'altro l'ha conosciuto, ci vuole spiegare meglio questa cosa, perché l'abbia lasciata sulle foto un po' osé e quindi... sì. Allora, il discorso è questo. Io vivo a Hollywood da 20 anni e la vivo, conosco la maggior parte delle celebrity che comunque hanno accusato, ho avuto modo di conoscere Harvey e la realtà è completamente diversa. Il discorso a Los Angeles è quando tu esci con una ragazza, vuoi uscire con una ragazza, fai il cosiddetto date, la ragazza sa già che vuoi uscire o perché le piace o perché vuoi intraprendere un'avventura. Immaginate voi quando una ragazza viene invitata in un hotel. La domanda, capito, viene da sola, perché comunque nessuno va in un hotel, in una stanza d'albergo. Io non voglio fare... Però non si discute di questo, Oscar, nessuno. Si discute del fatto che Harvey Weinstein aveva un potere tale per cui rifiutare un invito in un hotel aveva delle ripercussioni, non il fatto che le ragazze cadessero giù dal pero. Non è questo. No. Io vivo in California. In California qualsiasi cosa è una causa. Soprattutto sul sex harassment. Questa è pazzesca. Sì. Solo per un commento, tu vai in corte. La maggior parte di queste persone, sicuramente, perché stiamo parlando comunque, io non sto proteggendo nessuno, però nessuno l'ha ancora giudicato in corte, davanti a una corte. Sono tutte accuse. Gli avvocati da noi costano parecchi soldi, la signora italoamericana lo sa questo, e alla fine vanno su un settlement, vanno su un discorso di trovare un accordo finanziario. Ovviamente se Harvey Weinstein non fosse così potente, la maggior parte di queste attrici non andrebbero a intraprendere una causa, ma questa è un altro tipo di discorso. Allora, generale, però ci sta dicendo che noi non sappiamo la vicenda, poi ci sono tante accuse. La questione base è però che lei ha buttato lì questa questione delle foto osè. Come dire, è andata a vedere le foto di queste che accusano anche in Italia Fausto Brizzi, hanno le foto osè. Ma che vuol dire? Cioè, nel senso fatevi un giro su Instagram. Ce lo faremo. Ma questo è se dice una cosa del genere. Voi. Ma certo, ma se dice una cosa del genere è per arrivare a dire che cosa? No. L'automatismo è che se uno mette delle foto osè, facciamolo dire a lui se è così. Io sono sempre sul... ho appena avuto una bambina di 13 mesi e dunque vado con gli occhi non aperti, spalancati. Ovviamente se una ragazza esce scosciata diciamo così, è ovvio che ha 10.000 sguardi delle persone. Ormai viviamo in un mondo che con internet. Ma io non ho capito questo che c'entra con le molestie, generale. Non la vuole dire tutta fino in fondo, bene. Però sta disintegrando 30 anni di battaglie di Anselma Dell'Olio. Se la cercano. Se la cercano. No, ma però possiamo chiarire una cosa, per favore, perché qui si sta facendo di ogni erba un fascio. Io vorrei fare una differenza tra le attrici, che se non conoscono qual è la vita di un'attrice, che il casting couch non esiste da oggi, il divano del produttore esiste da sempre, E quindi se, poi molte di queste qui dicono che erano accompagnate da assistenti nelle camere d'albergo, poi dopo queste se ne sono andate, quindi quello non c'entra niente. Quello che c'entra è che le attrici avevano la possibilità di dire di no e di andarsene. E se sono rimaste, sono rimaste per una forma di opportunismo. Non si deve dire perché non è politicamente corretto, ma è così. Io mi preoccupo per la spennatrice del Kentucky, che magari il suo capo squadra la minaccia che se non gli dà favori sessuali la mette nel turno di notte. Lei è una mamma single, nel Kentucky c'è poco lavoro. Quelle sono casi che mi straziano, non le attrici che devono solo prendere sul coraggio per le mani e dire ma non ci penso proprio e sbattergli la porta in faccia, come ha fatto Angelina Jolie. Angelina Jolie e altre attrici hanno raccontato, non molte per la verità, che ha già provato a inizio carriera e Angelina Jolie ha deciso io non lavorerò mai più con questo qui. E dopodiché ha avuto una carriera lo stesso. Non pensiamo che basti andare a letto con un produttore per avere successo, non è vero, perché William Randolph Hearst, che era il soggetto di Quarto Potere di Orson Welles, ha fondato uno studio cinematografico per lanciare la sua amante Marion Davies. Marion Davies è un nome che nessuno conosce se non noi del cinema, perché non è riuscita a farla sfondare. Ha fatto tanti film ma non ha mai sfondato. È una donna simpaticissima, ma la macchina da presa non l'amava e quindi non diventa, non che veniva brutta, veniva che non gliene fregava niente a nessuno. Quindi non basta quello. No, però è interessante dire battiamoci insomma per le donne che hanno difficoltà di lavoro, che magari subiscono le vere molestie, quelle per cui Anselma Dell'Olio dice per quelle bisognerebbe fare delle campagne, però insomma invece non le attrici che in qualche modo però, questo è il discorso per cui si spera appunto che si estenda a macchia d'olio quella che è stata una campagna che è partita sul gossip, sui tappeti rossi, sulle attrici, che si spera che abbia un eco di un altro tipo. Però io ero curiosa di capire se questa è la posizione di Generale, perché il suo post su Facebook adesso mi sa che non glielo dà più il posto. Nel senso, aspetti, le faccio la domanda precisa. La domanda è: se lei pensa che in qualche modo uno possa provocare con delle foto osè, avere un certo tipo di atteggiamento, allora perché dire in Italia è tutto marcio, lavorano sempre gli stessi, fate i nomi e questo lo mettiamo al bando, vi faccio lavorare io? Perché... Allora, intanto la mia provocazione è una provocazione diversa, no? Come la sta impostando lei. Io ho dato un messaggio a quelle persone che vogliono, che hanno dei sogni e non riescono a realizzarli, proprio perché c'è questo muro delle stesse persone negli stessi ambienti che lavorano sempre gli stessi. Io lavoro con le celebrity ad altissimo livello e conosco tantissime persone nel mio business. Cosa succede? Io ho visto ormai un fare, come dice la signora, tutto un'erba un fascio in questi salotti e in questi programmi televisivi che avete ora in Italia, che hanno tutto un loro perché, e ho seguito anche queste ragazze. Qui c'è di mezzo un altro tipo di discorso, che si accusano delle persone e chi accusa queste persone, compreso queste ragazze, devono avere il coraggio sì di denunciare, ma devono anche avere il coraggio di andare avanti su una causa, perché si sta mettendo in ballo una persona, in questo caso Britti. Purtroppo le leggi in Italia però sono generale, le leggi in Italia sono un po' diverse, ci sono 6 mesi per denunciare una molestia, mentre in America credo ci siano 10 anni di tempo. Sì. In Italia... Io non sto basandomi sul periodo della magistratura, quanto ci mette e quando non ci mette, perché quando una persona è all'agonia, come Harvey Weinstein, come Kevin Spacey, e come Britti in questo caso, è finito. La gente, soprattutto negli Stati Uniti, non lavora più. A me incuriosisce, generale, che mi sembra mediatica che lei ci stia dicendo esattamente il contrario di quello che ha scritto nel suo post. Infatti la questione è che trovo molto intrigante. Risponda un attimo con un sì o no, perché lei ha detto: dico a queste attrici, se fate il nome vi faccio lavorare. Adesso le hanno fatto, ma lei sta dando un altro giudizio oggi su queste attrici. Cioè le farà lavorare queste attrici oppure no? Non mi metta in bocca altre cose che io voglio vedere le attrici in video che hanno il coraggio di sputtanare questo regista. Dicendo, ma devono offro, prendersi anche le loro dicendo offro una parte in un film internazionale all'attrice che avrà il coraggio e le palle di denunciare in video. Lei ha scritto offro una parte. Offro, ma io non mica mi ritiro. Guarda, ecco. Che io non ho nessun problema. No, io faccio siccome ha dato un giudizio diverso oggi di queste attrici, no. Cioè, le offre comunque questo posto, sì. No, io perché io sono una persona che sono abituato a mantenere le cose che dico, ecco il successo del mio lavoro. Ecco, dunque non ho questo tipo di problema. Ma io non ho, il mio problema non è far lavorare l'attrice. Il mio problema è comunicare determinato tipo di cose alle persone che hanno un sogno. Sì, sì. No, no, è che adesso che è uscito il nome di Brizzi, sembra che il suo atteggiamento sia cambiato. Mi scusi, perché lei nel suo posto diceva: sono inorridito nel leggere tutti questi articoli circa il potente regista italiano. Perché? Ma di cosa stiamo parlando? Si tratterà sicuramente del solito regista che fa parte della solita lobby italiana. In questo caso è Brizzi, potente regista. Non lo so, lei l'ha scritto dopo il servizio registi. Delle Iene, quindi secondo sì. Mi sentite? Sì, sì, sì. Ok. Il potente regista, perché Brizzi è un potente regista, secondo me ci sono altri nomi che le Iene non possono dire per una questione legale. Ah, ecco, perché, questo è un punto. Perché il nome delle Iene, le Iene sapevano già, quelle interviste sono state fatte prima del mio sfogo. Certo. Sì, però certo. Voi state sottovalutando una cosa, che nelle mie interviste sono tagliate, premetto, io non sono qui, è mezzanotte e mezza. Chi parla che ha in questi studi, diciamo, e queste grandi attrici, le faccio presente che qualsiasi attrice o personaggio pubblico, quando parla, ha un eco molto più lontano rispetto a un personaggio normale. Dunque può essere un esempio a una persona comunque comune. Io sto seguendo, perché è stata anche una mia cliente, oltre a una mia amica, la battaglia di Asia Argento. Asia Argento, che tutti conosciamo bene, e si sta schierando dalla parte, comunque ha avuto anche lei le sue molestie, e sta schierando dalla parte delle donne. Io nelle mie interviste ho seguito lei che ha fatto una denuncia dicendo: a 16 anni io sono stata molestata, ho visto, permettetemi, il pisello di un grande regista, di un regista nel caravan. Questo 20 anni fa le ragazze a 16 anni erano completamente diverse dalle ragazze di oggi. E da noi questo tipo di cose è un problema. E mi spiace dirlo, una persona così a 16 anni che fa una cosa del genere è un pedofilo. Dunque lei, visto che ha fatto questa denuncia e dice non ha detto il nome, il padre è andato a Domenica Inn senza dire il nome, loro lo devono dire questo nome, perché questa persona l'ha fatto con lei e lo farà con altre persone. Va bene, allora si fermi lì, generale, perché dobbiamo andare alla pubblicità e vi dobbiamo salutare. L'ultimo discorso era un po' avvitato, ma abbiamo capito il senso di questa vicenda, che continua ovviamente con tanti ascoltatori che ci chiamano. Vi dobbiamo salutare, Anselma Dell'Olio, grazie davvero, così come Oscar Generale, produttore da Hollywood. Io tanti mi dissocio completamente dal discorso delle fotografie e dell'atteggiamento delle ragazze, lo trovo un discorso davvero improbabile. Va bene, prendo assolutamente le distanze e mi dissocio. Ne ha facoltà di dissociarmi? Mi sembra un discorso veramente oltre il medievale, proprio siamo al vetusto. Tra l'altro sono ragazze che spesso lavorano con l'immagine, fanno le modelle e poi ambiscono a fare le attrici, per cui si fanno le foto un po' discinte, anche discinte, perché fa parte del loro mestiere, quindi questo sillogismo per cui automaticamente possono essere così corteggiate in maniera un po' molesta funziona. La pubblicità e poi rientriamo. I funamboli. Some kind of nature. some kind of soul, some kind of mixture. Allora, siamo qui alle 9:36 minuti. Guarda quanti ascoltatori. All'800240024 sul tema c'è Giuseppe da Siena. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Eccoci. Niente, io sarò velocissimo, brevissimo, ti prendo poco tempo. Io penso che dipende anche dal tipo di donna, quindi se è attrice, se è donna normale, perché ci sono delle donne, diciamo, di facili costumi, no? Anche a un certo livello di immagine, che hanno cambiato 5, 10, 15 uomini. E ovviamente pare che sia una preda facile e domandare è lecito, rispondere è cortesia, si diceva ai miei tempi. Insomma, ma questo è cioè il corteggiamento, senso, ma le moleste sono un'altra cosa. Toscana che si fa nulla, e lei mi dice no, non si fa nulla, grazie, ma arrivederci, ma senza... Se questo poi è una molestia... Questa è una allora dinamica però, normale, cioè uno, scusi, ci, Giuseppe, uno ci prova e ma siamo arrivati respinge. Alla donna facile perché ha cambiato parecchi uomini, io non so più che dire, cioè non so più che dire, alzo le mani. Vabbè, Veronica, che dobbiamo dire? Vabbè, il nostro Giuseppe è così, insomma, ma vorrei capire la soglia oltre la quale considerare no, una donna... No, quando è che una donna diventa facile? Fatemi capire, so, dopo quanti so. Uomini si è autorizzati a piazzarle una bella manata no, sul no, sedere no, perché diventa un po'... Non è una regola, signora, però voglio dire, sembra che lo sia, che devo dire io, cioè le apparenze poi sono quelle lì, chiaro, come dicevano prima, se su Instagram queste ragazze si presentano tutte scosciate con il petto e di fuori, allora, allora... chi mostra vende, chi non chi mostra non vende. Chi mostra vende, ma che è una mucca, ma che è una mucca! Purtroppo talvolta vendono la loro immagine per fare delle fotografie, non perché gli si piazzi la mano sul sedere o perché ci siano persone che si sentano autorizzate a provarci con loro anche in maniera aggressiva. Mi arrabbio io al posto no, di Veronica. No, ma questo è un discorso, no, perché poi devo fare la parte, capito, della veterofemminista. Ma no. Quando sai perfettamente che poi sulla caccia alle streghe sono la prima ad innervosirmi, ma questi discorsi, cioè, sembra veramente di fare un salto indietro di, non so, mi 40 anni, non te. È esistito il va femminismo. Bene. Grazie Giuseppe. Niente. Alex da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro, mi sentite bene? Sì. Secondo me qua c'è gente che non sa nemmeno di cosa sta parlando, perché una donna, una ragazza si può vestire come il diavolo vuole, non deve essere molestata né al lavoro, né in giro, né da nessuna parte, cioè dove siamo. Detto questo, che è giusto per chiudere il filone, mi riallaccio al discorso proprio del regista. Secondo me non dovrebbero venire messi questi personaggi alla berlina quando non ci sono prove, nel senso che è vero che potrebbe usiamo il condizionale, essere successo qualcosa di questo tipo, però già andare in televisione, il telegiornale che dice questo ha fatto questo ha fatto quell'altro, secondo me rovina proprio la reputazione in due secondi, ma poi c'è una ripercussione anche sulla famiglia, per cui... Beh, infatti la moglie di Brizzi oggi lo scrive proprio, sono barricata in casa da 5 giorni, anche questo assedio è una violenza sulle donne, in questo caso io e mia figlia. Sicuramente non starà vivendo un bel momento, primo Fausto Brizzi e la moglie, insomma, quella dice è una gogna, una sorta di gogna mediatica a dire... Non è giusto, no. Secondo me non è giusto, sono cose che dovrebbero essere affrontate in privato, tanto la magistratura e il loro lavoro lo sanno fare benissimo, anche senza televisione, anzi secondo me anche senza televisione. Va è bene. Come quando succedono i delitti che subito puntano il dito, ah è stato lui e la folla va a picchiare, cioè... No, no, è chiaro, no, la sua posizione, d'accordo. Alex. Il problema è che la magistratura non può più intervenire, come dicevamo poc'anzi, perché le denunce di molestie vanno fatte entro 6 mesi. Ma guarda, ieri però l'avvocato Buongiorno diceva che si possono fare altri tipi di accuse, non sì, chiaramente delle, di molestie, casi... ma di violenza privata, cioè, e quindi si può anche cambiare. Comunque questa tentare è una di ovviare, vicenda, però diventa un percorso ancora più tortuoso. Allora, quindi... noi abbiamo chiamato adesso per cambiare tema un assessore, l'assessore all'istruzione del comune di Ladispoli, siamo in provincia di Roma, l'assessore è Lucia Cordeschi, che salutiamo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Perché torniamo sul tema che affrontiamo in vari modi. L'altro giorno avevamo il sindaco di Montevarchi sulla questione del pane e olio, è successo un putiferio no, sulle mense scolastiche. Ma il comune di Ladispoli ha deciso che bloccherà, nel senso con il fermo amministrativo, le auto dei genitori che non pagano la retta della mensa scolastica. Questa secondo me è una ricetta giusta. Cioè voi non fate quelle modalità per cui, tra virgolette, colpite i bambini sul lato mensa proprio. Non date pane e olio ai bambini? No, assolutamente no, assolutamente no, perché loro non c'entrano nulla sul comportamento dei genitori. E comunque io volevo precisare, il blocco amministrativo verrà fatto in secondo e in terza istanza, all'inizio verranno invitati come già lo sono stati negli anni passati, ma adesso saranno invitati, diciamo, con più premura a presentarsi all'ufficio, agli uffici direttamente giù per saldare, oppure all'ufficio pubblica istruzione. Chi non lo fa verranno dati immediatamente mandati all'Agenzia delle Entrate per arrivare al pagamento, e oppure in terza istanza, come dicevo, si arriverà al blocco amministrativo. Questo perché appunto i bambini non c'entrano nulla, non devono pagare per le malefatte dei genitori, che possono pagare la mensa ma che si esimono dal farlo, e, diciamo, buttando una macchia su tutti gli altri che invece ottemperano ai loro doveri. Ma io non ho capito perché è così diffusa la questione del non pagare la mensa. Cioè, è un costume molto diffuso. Ma perché proprio invece la mensa? Bisogna interrogarsi su questo. Perché è più difficile riscuotere. È bravissima. E poi si continua ad usufruire di servizi comunali, perché nel momento in cui si fa richiesta e si iscrive il bambino al tempo pieno a scuola, si sa che c'è la mensa scolastica, il bambino deve mangiare e c'è la mensa scolastica, e non ci deve pensare il comune a far mangiare tuo figlio, ma ci deve pensare il genitore o il tutore. Oltretutto è di doppia lettura il fatto che ci siano i bambini di mezzo, esattamente come diciamo, non facciamo pagare ai bambini, è il ragionamento che fa anche il genitore che non paga e dice, beh, la scuola non sarà così crudele da non far mangiare il bimbo. Ma infatti assolutamente no, quel provvedimento di quel comune, vi ripeto, lo trovo veramente scellerato, se posso, passatemi il termine, perché non c'entrano nulla. Però assessore, guardi che qua poi si era scatenata l'idea, perché giustamente tutti dicono che pane e olio è un cibo sanissimo, anzi sono cresciuti al pane e olio. Lì avrei bisogno di un altro tipo di intervista, legare anche il fatto al panino, al decreto del Miure che diceva il panino da casa, insomma abbiamo altre, le ripeto, dovrei fare un'altra intervista. Però diciamo che vi ripeto, il pane e olio è veramente un problema brutto, sia per il bambino che comunque si vede privato del pasto dell'amichetto, dello sguardo bruttissimo che danno i bambini, ovviamente gli altri, nel vedere questo trattamento, quindi io mi sentirei veramente male a farlo, ma sono tante le famiglie, cioè è un problema concreto, sì, la Dispoli? Sono assolutamente tante, sì, purtroppo sono proprio un 40%, quindi 40%. Capisce bene. Sì, capisce 40%. Bene che su 1700 pasti è veramente tanta la cifra, quindi da un controllo con la ragioneria e con l'ufficio pubblica istruzione e con gli addetti della mensa che ci aiutano in questo controllo, insomma, siamo arrivati a questa. Ma c'è quasi metà famiglie che non pagano la mensa. Ma perché, cittadini di Ladispoli, ma pagatela la mensa, è un servizio a questi bambini. Ma è difficile individuare quali sono le famiglie realmente in difficoltà e quali invece sono le famiglie che ci marciano? È difficile se non si fa ripresentare tutta la documentazione, il modello ISE e quant'altro, perché altrimenti è facilissimo, insomma. E infatti abbiamo anche previsto, qualora ci siano famiglie veramente indigenti, il comune provvederà. Però per quelle ben venga l'aiuto comunale, ma per le altre sinceramente no. Va bene, assessore, noi la ringraziamo davvero. Niente. Assessore Lucia Cordeschi, assessore all'istruzione alla Dispoli. Eccola qua, un'altra pane olio, un'altra radical chic. È ripartita, sì. Veronica, è ripartita. No, pane olio che non mi va bene. Pane no, volevo olio, dire, infatti io sono stata messa alla gogna dalla potente lobby del pane olio e adesso anch'io vivo questa gogna mediatica. Sono asserragliata dentro casa con bottiglie d'olio piazzate sotto. C'è un problema però. Ecco. Sono le 9:45 e non hai ancora provveduto a chiedere nulla il tuo fabbisogno quotidiano. Perché hanno chiamato soltanto persone che si sono così accanite contro le donne di facili costumi, invece di chiamare per delle cose pratiche tipo vestiti, trucchi. Potresti chiedere una fornitura di olio extravergine d'oliva, grande. Per esempio, grande la lobby qualità del pane olio che vuole convertirmi dopo che io ho fatto queste dichiarazioni, mi vuole mandare un po' di olio buono, di più spremitura proprio, Perché io a quel punto sono pronta a rivedere, come sul calcio che ho studiato, le mie posizioni subito. Ieri l'abbiamo sistemato con una cena, con non so cosa, il bite per ieri i denti. Ieri ne abbiamo beccate un po' poi nel pomeriggio. Sì, io sono il bite per i denti, no, dentisti di tutto il mondo, odontotecnici, chiamate, ho molto bisogno. Mi chiamate all'800 24 00 24, ne ha bisogno di tante medici, cose. Medici, un appello ai medici, telefonate, che i medici sono sempre utili, prendiamo appuntamento su Roma, mi è più comodo, ma mi sposto. Traffico. I funamboli. You shake my nerves. my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Ma facciamola finita con l'ipocrisia. Il 90% delle attrici ha fatto carriera andando a letto con i registi. Ciao ragazzi, sono Roberto da Mantova. Volevo dire che sono d'accordissimo con il generale. Va bene che si faccia informazione su queste cose, si indaghi. Però una volta scoperta la notizia, cioè, il resto diventa gossip. Credo che ci vorrebbe un po' più di privacy per chi subisce queste cose, perché poi a volte qualcuno ne esce pure pulito. Allora, questi nostri ascoltatori, ma dobbiamo ricordare che domenica alle 20.45 al Teatro Manzoni di Milano torna Platone! La caverna dell'informazione, eccolo, qui a Milano, eccolo, al Teatro Manzoni. Guarda. Buongiorno Veronica. Buongiorno caro, allora, come sei frizzante stamane. Ci ho messo un'ora e venti per trovare parcheggio e venire da casa mia, quindi mi devo infrizzantire per forza. Dobbiamo comunicare che ieri sul titolo che abbiamo chiesto i 560 euro per un pranzo a Venezia hanno vinto Luca da Seriate, Venezia, 560 euro, pranzo in Doge. Mi è piaciuto quello Doge. Dell'inizio, della prima, ce l'hai anche spiegata. Tiziana, senti Tiziana da Milano, Lara Costa. Uh-huh. A Venezia, Lara Costa. Vabbè, oggi incredibile, gran finale. Regaliamo quattro vincitori. Esatto, quattro vincitori, quindi diamo gli ultimi otto biglietti. La notizia è le non dimissioni di Tavecchio. Quindi dovete dare un titolo divertente, possibilmente, esatto. Le dimissioni di Tavecchio. Che non ha dato, tra l'altro. Al 349 238-6666 mandate il titolo, scrivete anche come vi chiamate. Da dove scrivete? A Roma, Viterbo, Ladispoli, Venezia, tutto Curno, nel Lazio hai scelto le Curno. Prime, vedi che inizia. Scrivete il titolo, le non dimissioni di Tavecchio. I vecchi che non si vogliono dimettere, si parla sempre male dei giovani, invece qui i vecchi sono più attaccati alla posizione dei giovani. Gerontocrazia. Gli dà uno spunto. Gerontocrazia, non ci sono più i vecchi di una volta insomma, si dimettevano più volentieri. Dacci un attimo notizie del metatarso al volo. Sì? Il metatarso migliora, grazie, la distrazione migliora. Si sta concentrando il metatarso. Io volevo darvi una notizia invece stamattina, che sull'onda insomma delle molestie di cui tanto si parla in questi giorni, uscirà a Natale, soprattutto ad uso di registi aspiranti attrici e attrici, ecco, un'agendina che si chiamerà Molestin, dove la Molestin. La famosa, la celeberrima emingueiana Molestin, dove per ogni giorno c'è un esempio in cui per ogni giorno dell'anno c'è un esempio in cui si possa capire se il regista ha fatto molestia nel caso dell'attrice oppure no. Vediamo alcuni giorni a caso. 18 ottobre, per esempio, l'attrice si presenta al provino e il regista, prima di cominciare il provino, si frega le mani. È molestia se il gesto è accompagnato anche da sguardo lascivo, non è molestia se nella location del casting non c'è riscaldamento, perché per la temperatura. 6 febbraio, l'attrice si presenta al provino, il regista le si fa incontro per darle un bacio sulla guancia. È molestia se il bacio è a meno di 2,5 cm dalle labbra, a meno che l'attrice non abbia le labbra particolarmente gonfie. Ci sono queste attrici con le labbra molto gonfie che invadono anche parte della guancia. 9 maggio, l'attrice si presenta al provino, il regista immediatamente sventola un profilattico. È molestia a meno che il regista non abbia superato i 99 anni, quindi non è molto più presente a quello che fa e che dice. 24 settembre, l'attrice si presenta al provino, il regista si toglie le scarpe. È molestia, ma solo se sono scarpe coi lacci. Il mocassino può dare adito al dubbio, perché ci sono anche persone che ogni tanto si tolgono un mocassino così parlando. 15 dicembre, l'attrice si presenta al provino, il regista comincia a fischiare e gira come impazzito sul set assumendo pastiglie di Viagra. È molestia a meno che la scena non faccia effettivamente parte del copione di un cinepanettone. Ci sono questi server. 14 dicembre, l'attrice si presenta al provino, il regista la saluta coi calzini abbassati. È molestia, ma solo se il calzino non ha l'elastico sfibrato ed è ben visibile, perché a volte il calzino con l'elastico sfibrato può cadere. 20 giugno, l'attrice si presenta al provino con una scollatura, il regista le si fa incontro e la saluta fissandole il seno, non sollevando mai lo sguardo per tutta la durata del colloquio, sempre fisso lì. è molestia a meno che il regista non presenti all'attrice cartella clinica comprovante seri problemi di cervicale, cioè non può muovere il collo. 4 agosto, l'attrice si presenta al provino, il regista le si fa incontro e invece di baciarla sulla guancia le bacia il collo. È molestia a meno che il regista non sia molto basso, non riesce ad alzarsi. 12 marzo, l'attrice si presenta al provino e il regista le propone di interpretare il nuovo film di Federico Moccia. È molestia sempre. E l'ultimo, 20 aprile, l'attrice si presenta al provino e il regista le si fa incontro mettendole entrambe le mani sulle spalle scoperte. È molestia, ma solo se almeno una delle due mani è sudata. Queste, tutte queste diciamo cose serviranno e saranno descritte nella Molestin, che potete anche regalare alle vostre amiche aspiranti attrici. Guarda, per sapere come comportarvi i registi in caso di provini con l'attrice. Dove si compra la Molestin nei migliori? Nelle cartolibrerie più moleste. Cioè. Più moleste. Vabbè, devo dire che stanno arrivando tantissimi titoli, io li sto fotografando, questi. Non è un paese ma per non tavecchi. Li possiamo? No, perché se li leggiamo, secondo me, poi... Suggeriamo, ma chi se ne frega? No, suggeriamo oppure censuriamo l'ispirazione di chi avrebbe pensato una cosa simile. No, dai, questa è stupenda. Grappa alle 18 lune di Stavecchio. Non ce la fanno a leggerla. L'arte di saperlo aspettare. Non se ne vuole annà, come direbbero a Roma. Non se ne vuole annà. Ma poi ce l'abbiamo quella di Tipo Ba, l'ha mandata anche Telesi oggi. Ragazzi, ma allora tu non sapevi chi fosse Stavecchio, no? Prima di poco fa, Veronica? Sì, ormai sono passate circa 48 ore. Fai conto. Si presenta presidente della federazione. Gioco calcio 2 o 3 anni fa, 4 anni, non lo so quando. E parla del problema degli stranieri. Problema appunto degli stranieri che giocano in Italia e arrivano da altri campionati. Ma adesso perché lo stiamo trovando, sto prendendo tempo come. Spiegami intanto qual è il problema. Prendi tempo facendo una cosa buona. E racconta del fatto che ci sono troppi stranieri, eccetera. Però se dobbiamo andare in giornale radio e non lo troviamo, come facciamo? Ma ce l'aveva mandato Teresa. Oggi alle 7 del mattino, vabbè, niente. Te lo faccio sentire dopo le 10. Sei stato in grado di spiegarmelo, eh? Troppi stranieri, che significa? Ma te lo devo far sentire da Tavecchio cosa ha detto. Senti cosa ha detto Tavecchio, per i troppi stranieri. Non ho più altro da aggiungere su queste storie. Le questioni di accoglienza sono un conto, le questioni del gioco sono un altro. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano se hanno professionalità per farli giocare. Noi invece diciamo che Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare. Le banane, Pogba, che non esiste Pogba. Mangiava le banane in Africa. Ecco, presidente della Federcalcio, devo aggiornare. I funamboli. Noi siamo in questo momento protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico della donna nel calcio. È perché finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio, sulla resistenza, sul tempo, sull'espressione anche atletica. Invece abbiamo riscontrato che sono molto simili. Capito Veronica, siete come noi, voi donne handicappate. Signore, perdonali perché non sanno quello che dico. Ma tra l'altro in 5 secondi ha mancato di rispetto alle persone che porta con disabilità, no? Chiaro. Alle donne. Presidente della Federcalcio, Tavecchio. Ha fatto strike. Che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare. Hai capito? È venuto qua, mangiava le banane, adesso è titolare. Nella Lazio, tra l'altro, ha detto nella Lazio. Non è vero. Poi io dico che paradossalmente potrebbe anche essere bravo nel suo lavoro, ma una persona che ricopre quel ruolo deve saper parlare in modo corretto. Certo. Non puoi parlare così se hai un ruolo importante, non puoi. Il problema è questo, è una delle cose che mi sconcerta dei dirigenti calcistici, cioè sì. L'eloquio, il modo di parlare, le scelte, proprio lessicali, ogni volta li ascolto e dico dai, state scherzando. Il giuoco. sapete, il gioco non, è, del non essere proprio il mio ambito, ma quando li sento parlare penso sempre che sia uno scherzo. Vabbè, adesso, la prima volta. Adesso, per carità, queste polemiche si lo hanno accompagnato un po' negli anni. È chiaro che vengono giustamente anche ritirate fuori nel momento in cui c'è una disfatta sportiva. Il presidente della federazione. Ci sono gli inanellatori di gaffe, quelli che proprio le prendono. No, a proposito di banane, una buccia di banana dopo l'altra. Sì, via. Ma qui non sono neanche gaffe. Cioè, la gaffe è come dire. Ma dire le donne sono handicappate. È incapacità di trovare un altro linguaggio. Ma sai, voglio dire. Sono anche convinto che, finita l'intervista, in quel caso era Report, magari non era neanche convinto di aver detto qualcosa di. Ma cosa, certo detto, no. cosa ho detto di male? Detto, no? E quindi, anzi, ho detto che fino adesso hanno pensato che erano handicappate, ora non lo pensiamo più. Ho detto che sono brave, brave. Abbiamo scoperto. Ma perché il problema è che bisogna operare anche dei sistemi di censura di quello che si pensa quando si va a dormire e ci si mette il piumone. Però, cara Veronica, sai chi era il più grande sostenitore di Tavecchio? Il presidente della Lazio, Lotito. È il più grande sostenitore tuttora di Tavecchio. Voi mi state dicendo che è un problema Lazio. Della Lazio. No, perché no, allora no, adesso no, io vado no, a parlare no, con papà no. Oggi pomeriggio e cerco di capire com'è la situazione. No, ditelo davanti a tutti i laziali, no, forza. No, non ci permetteremmo mai, ma insomma volevamo dirtelo così per completezza di informazione. Guardate che se dite così da domani non mi manda più in radio papà, ve lo dico. Un po' è vero, dai. Dai, sono le 10:11 minuti, questa è la seconda ora dei funamboli, è il momento della funambola del giorno. Nome: Lisa. Cognome: Cavalli. Età: 40 anni. Appassionata di moto, è la fondatrice di Miss Biker, una community di donne motocicliste. In soli 2 anni, Miss Biker ha superato le 3.000 iscrizioni. Chissà cosa ne pensa il presidente della Federcalcio Tavecchio. No, salutiamo Lisa Cavalli, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Tutto nacque, non vogliamo, da una delusione d'amore, così ho letto, ma in che senso? Vabbè, dopo un po' di anni di convivenza, quando ti abitui a dovere, hai la tua idea di avere una vita. No, ma non volevo gettare nel dramma, io sono interessato invece alla questione. Vada avanti. Diciamo che è stata una rivoluzione, ecco, e ho deciso di comprare la moto e da là è cambiato tutto. Miss Biker. Cioè? Quindi invece di tagliarti i capelli come fanno di solito le donne o cambiare il colore quelle cose, tu hai deciso di proprio fare una cosa un po' più radicale. Sì, è un desiderio che ho sempre avuto da piccola, però magari non sono mai riuscita a realizzarlo, e quel giorno ho detto vabbè, sai cosa, la mia vita cambia, mi compro la moto. Che è la cosa che di solito fanno gli uomini quando finisce una storia. Vero? Sì. Invece adesso ormai con la parità di genere vedi che succede anche a noi. Ti ha appena trattato come Tavecchio, esatto. Leonardo, te lo dico. Adesso diventerà un... Sei Tavecchio? No. Un tormentone. Adesso, no. Allora, tra l'altro, è talmente diventata questo fenomeno, Miss Biker, importante, che è vero che hai lasciato il tuo lavoro da impiegata e ti dedichi a questo, ma cosa fate esattamente? Beh, facciamo un po' di tutto, perché Miss Biker è nata come community per aggregare le ragazze con la passione per la moto. Questo non è detto che siano motocicliste, magari lo saranno o lo sono state, quindi questa cosa amplia ancora il numero delle ragazze. E noi organizziamo dai corsi di guida sicura ai corsi off-road, poi facciamo anche i corsi in pista, giornate in pista, facciamo conoscere le ragazze alle realtà di aziende multinazionali che possono avere più attenzioni verso un mercato femminile che comunque è in grandissima crescita. E tantissime altre cose, ecco, un network dove noi ho un gruppo di ragazze che è bravissime del mio team, che testano le moto, testano articoli al femminile e li ripropongono nel nostro sito. Va bene, insomma, e tra l'altro come vi raggiungono, giusto perché così almeno diamo gli estremi, chi volesse assolutamente unirsi. Beh, il nostro sito è missbiker.com, poi semplice. Ci trovano in Facebook, che è la nostra community, e anche Instagram e comunque tutti i social siamo molto presenti. Mi sembra giusto. Ma sono molte le donne che vanno in moto, cioè facendo proprio un percentuale rispetto agli uomini? Sì, sono sempre di più. Calcolo, Veronica, che adesso siamo l'8% circa della popolazione motociclistica. Ah. È ancora poco, però se calcoli che siamo circa 500.000 in Italia, censite dall'ACI, quindi ragazze che posseggono una moto. Ma mezzo milione, insomma, non è male. Lisa, no, ma tante. Questo cambiamento ha determinato anche un cambiamento poi nelle tue relazioni d'amore? Perché lui voleva oppure che cosa è cambiato in meglio? No, era interessato, era interessato. Beh, diciamo che al momento non ci penso, nel senso che sono così presa da questo mondo affascinante e sto ascoltando tantissime storie di ragazze, le esigenze che hanno, che mi sono buttata a capofitto in questo mondo e quindi è una cosa qua in secondo piano, ecco. Cioè. Ma il tuo fidanzato precedente ti in qualche modo osteggiava la tua passione per le moto, diceva no, lascia stare, che non è una cosa per te, quindi è stata una cosa anche di ribellione nei suoi confronti oppure no? No, ma sai, neanche un discorso di ribellione. Credo che alla fine abbiamo preso due strade diverse. Lui sicuramente era motociclista, quindi io stavo sempre dietro, no? Come la chiamiamo noi, la zavorra. Certo, dirlo, quindi, però, quindi c'è un trascorso, c'è un trascorso. E poi stare dietro deve essere terrorizzante. Vedi quello che guida, che va velocissimo, fai le curve, tu fai... No, è un'arte anche quella di essere zavorra, ve lo dico, perché non è così semplice come può sembrare. No, certo. Cioè, se sei lì rigido come un palo, per esempio, e non assecondi la guida, è un disastro. Però è bello fare la zavorra anche, eh? Far la zavorra, non è male. Si dice così, non lo sapevo, nel gergo dei bikers. Faccio la zavorra. Lo so, è un po' brutto, sì, però diciamo passeggera è più carino, dai. Però noi diciamo zavorra, zavorrina, puoi chiamare anche con termini molto più simpatici. Soprattutto deve essere complicato quando la moto si piega, perché chi guida ha il controllo, chi sta dietro vede la moto piegarsi e l'istinto è quello di andare proprio dall'altra parte. Invece. Bravissimo, se non sei motociclista o non sei avvezzo, sicuramente cerchi di tenere l'equilibrio dritta la moto, no? In verità devi seguire esattamente quello che fa il motociclista. Però è bellissimo, quindi... perché ha detto in realtà che nascono tutti i vezzeggiativi, zavorrina mia, zavorretta, vieni dove ti qua, porto zavorrina mia. Vabbè. Tu hai uno zavorrino adesso che porti, no, Lisa? No, ma non porto nessuno, non porterò nessuno, perché penso l'indipendenza di guidare una moto è una cosa bellissima, quindi è più bello da soli? Poi. È più bello. Sì, assolutamente. Che moto guidi? Una custom, una naked? Cosa guidi? Una naked, bravissimo, guido una naked 07, ho iniziato con quella, ho fatto la patente con un 700, è andata benissimo. Sono proprio orgogliosa anche della mia moto, insomma. E allora dai, Lisa Cavalli, grazie davvero per essere stata con noi. MissBiker.com, la trovate così, questa community dove adesso mi iscrivo e comincio ad andare in motocicletta. Motocicletta, eccola lì, ci ce l'avevo in canna da mezz'ora. Il Battisti dannata. 10 HP. Allora andiamo a sentire al traffico come va. Meglio va. I funamboli. Adesso abbiamo creato un caso, perché c'è chi dice che zavorra, una donna evidentemente ci dice che sono una zavorra che si addormenta per la noia, ma c'è anche chi ci dice che zavorra non l'ha mai sentito e si chiamano zainetti, sì, in realtà. Sì, questo anch'io leggevo, infatti. Anche te? Sei stata anche... zainetta? No, io sono stata un sacco di... non sembra so un po', se sei stata sorcina. Zavorra. Sei stata sorcina. Zainetta, sorcina. Però guarda che a me ti dirà zavorra non dispiace. Zavorra perché è un puoi, po'... Perché zavorra comprende in sé anche il fatto che puoi rompere le scatole a quello che sta guidando, capito? Gli dici, che fai? Perché sei proprio una zavorra, capito? Sì, invece lo zainetto è un po' diverso. Così, notato. Comunque, signori, ora dobbiamo parlare di un tema molto molto serio che riguarda l'università, riguarda le tasse degli studenti universitari. Perché? Perché c'è una legge che impone alle università di non chiedere come tasse una cifra superiore al 20% di quanto ricevuto dallo Stato attraverso il fondo di finanziamento ordinario. È solo che alcune università evidentemente l'hanno sforato questo parametro. E ora ci sono tantissimi studenti, alcuni hanno già ottenuto dei rimborsi di tasse troppo alte versate, e altre migliaia di studenti attendono di capire se possono essere rimborsati. Che, per carità, Veronica e Leonardo, sono cifre che io tiene indietro 200 euro, 300 euro... 180 euro, non sono cifre... simbolicamente che è molto significativo. No, ma soprattutto messe insieme, però le università italiane rischiano così di dover pagare a migliaia di studenti. Poi comunque per uno studente fanno anche comodo, insomma, 150 euro. Assolutamente. Salutiamo infatti Luigi Profeta. Buongiorno, è studente al quinto anno all'Università di Pavia. Buongiorno Profeta. Buongiorno. Lei per esempio verrà rimborsato a fine novembre, di quanto? ma io ho un ISE intorno ai 22-23 mila euro, di conseguenza avrò un rimborso intorno ai 200 euro più o meno. Intorno ai 200 euro, e che gli serviranno? Visto che ancora sono studente, posso essere utilizzati o per il continuo acquisto di libri o di manuali, oppure anche per una mezz'età di affitto, così almeno posso spendere quei soldi per altre. Ma è stato un lungo iter per riavere indietro questi soldi? È stato faticoso? Uno si deve molto applicare o è una procedura abbastanza semplice? Allora, quella di adesso, l'ultima procedura è molto semplice. Noi basta che ci colleghiamo alla nostra area riservata che abbiamo sull'Ateneo e accediamo con le nostre credenziali e facciamo la procedura online. Quindi praticamente con due clic facciamo la richiesta, presentiamo la richiesta e poi inseriamo il nostro IBAN e quindi l'Ateneo, direttamente sull'IBAN che noi comunichiamo, accrediterà i soldi. Ma è straordinario. Prima invece era un po' incasinata, c'era la procedura con la marca da bollo, bisognava protocollarla. Però passi da giganti, ecco. Beh, ma è interessantissimo. Guardi, la sta ascoltando e lo vogliamo salutare il rettore dell'Università Federico II di Napoli, anche il presidente della CRUI, quindi la presidenza della conferenza dei rettori italiani, Gaetano Manfredi. Professor Manfredi, grazie, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Senta, ma questo è un problema economico che rischia di essere un problema economico serio e grave per le università, detto che se c'è stato uno sforamento bisogna pagare, No, diciamo può essere un tema molto rilevante. Io ricordo che questo riguarda tasse versate prima del 2013, quindi perché poi il 2013 è stata modificata la norma. E vorrei anche ricordare che in realtà questo sforamento è stato essenzialmente dovuto al fatto non che sono di tanto aumentate le tasse, ma soprattutto perché sono diminuiti i trasferimenti dello Stato. Quindi si è sforato quel 20%. E alla fine si è sforato il rapporto. Abbassare le tasse. Perché per mantenere quello bisognava abbassare le tasse. Quindi diciamo non c'è ancora una quantificazione certa di quanto questi impatti su tutto il sistema, non riguarda tutte le università, quindi adesso si stanno facendo delle valutazioni e potrebbe essere per alcune università un importo significativo, perché l'ordine di grandezza per ogni studente, come ha ricordato, lo studente in linea è dell'ordine di 100-200 euro, insomma questi sono i numeri, però è chiaro quando gli studenti sono tanti poi sono? È la somma che fa il totale. Quindi parliamo degli anni 2010, 2011 e 2012? 12 sì, fino al 2000, non so esattamente se il 2013 è compreso o meno, perché la norma era una norma generale, adesso invece la norma fu modificata e quindi riguardava il 20% riguarda il limite agli studenti solo in corso. Sì, tra l'altro quello che viene definito lo tsunami è partito proprio da Pavia, Luigi Profeti e gli studenti a Pavia. Esattamente, perché è stata la prima università in cui si è evidenziato questo problema che si stava materializzando. Comunque si parla di 20.000 studenti potenziali che potrebbero avere bisogno, che potrebbero aver diritto ad ottenere indietro un po' di soldi. Sì. 20.000. Su Pavia sono 8 milioni di euro. Pavia 8 milioni di euro, ecco. Dal 2010, 11 e 12 se sommiamo, perché nel 2012 effettivamente il ricorso presentato dalla componente studentesca era compreso tutto 2012. L'Ateneo invece sosteneva che si deve applicare la legge Monti, che è quello che aveva accennato adesso il professore, però il Consiglio di Stato ha detto no, la legge Monti non è applicabile per il 2012 e di conseguenza la cifra totale è 8 milioni di euro che deve essere rimborsata. Beh, che è tanto per un'università come quella di Pavia, che non è comunque enorme come struttura. Sì, ci rendiamo conto che è una cifra abbastanza consistente. No, chiedono tra l'altro, riguardano le università anche la Cattolica, il Sacro Cuore di Milano, chiede un'ascoltatrice. Tutti rettore, pronti a chiedere credo indietro che... le tasse. Ma è chiaro, cioè se è dovuto... rettore, riguarda tutte le università italiane ovviamente, diciamo, quelle che non hanno abbassato le tasse in pratica. Riguarda diciamo le università pubbliche, quindi pubbliche. Perché diciamo questo limite, perché ovviamente questa quindi norma la Cattolica riguarda no, le università, esattamente, riguarda le università pubbliche che hanno un trasferimento da parte dello Stato, quindi che una parte degli studi degli studenti sono sostenuti dallo Stato. Ma questo è importante, direi, che le università pubbliche, perché laddove si è superato questo rapporto per cui si è chiesto tasse che superavano del 20% di quanto lo Stato nel fondo di finanziamento dava all'università, trasferiva esattamente, c'era questo esisteva questo vincolo. Ma da cosa è dipeso? Da una disattenzione? Cioè una non applicazione? No, della... no, ci hanno provato! Rettore, ci hanno provato! È una dinamica molto complessa, perché lei deve considerare che noi, che le università sanno a fine anno, quando si fa la finanziaria, quanti sono i soldi che le vengono trasferite dallo Stato. Sì. E quelli sono stati anni di grandi tagli. Quindi il sistema universitario italiano ha perso 1 miliardo di trasferimento, quindi il 20% del trasferimento. Quindi il trasferimento è sceso moltissimo. Oh. E quindi praticamente quello è un rapporto. Il trasferimento è sceso e questo è un problema, perché bisognerebbe dare più fondi alla ricerca, alle università italiane. Però questo rapporto lo si conosceva, un'università in maniera automatica avrebbe dovuto dire: sapete che c'è, dobbiamo abbassare le tasse, se no sforiamo quel rapporto. No, perché il trasferimento si conosce a fine anno, non all'inizio. Quindi poi i tagli vengono fatti sull'anno precedente. Si sapeva quale era era impossibile calcolarlo. Poi lei deve considerare che il gettito delle tasse, perché questo è un calcolo, non è il 20, è sul gettito complessivo, dipende dal numero di studenti che si iscrive, anche da qual è il loro reddito. Sì. E quindi questo è un calcolo che si può fare non solo facile, a posteriori. Però Luigi Profeta, il nostro studente, voleva aggiungere qualcosa. Una cosa. Allora, rispetto anche a cosa ha detto il professore. Allora, realmente ci sono stati una serie di tagli provenienti già dalla legge Tremonti, però ad esempio Pavia gli studenti hanno fatto ricorso sia sul bilancio preventivo che su quello consuntivo. Nel bilancio preventivo, che l'Ateneo a prova, viene approvato nel mese di dicembre. E già lì veniva segnato lo sforamento. Infatti gli avvocati, poi sia al TAR che in Consiglio di Stato, hanno fatto pesare molto il problema è che già l'Ateneo in bilancio preventivo aveva espresso intenzione, diciamo politica, di superare la tassazione, perché già nel bilancio preventivo il limite del 20% non veniva rispettato. Sì, ma diciamo che la sentenza è talmente chiara che ha dato ragione agli studenti. Sì, che su questo non c'è nessuna discussione. Hai sentito Luigi Profeta come convincente anche. Io lo vedo già con un futuro da molto determinato. Volevo aggiungere un'altra cosa, visto che siamo in Lombardia, siamo pieni di università private. È veramente una cosa incredibile il fatto che le università private, quindi la Bocconi, la Cattolica, non hanno il limite del 20%, non devono rispettare questo limite del 20% di assunzione. Però sono private e in più, queste. E in più prendono però dei soldi pubblici per il diritto allo studio. Quindi ad esempio i soldi che prende per il diritto allo studio Pavia sono molto simili alla quantità che prende la Cattolica, ad esempio. Quindi lei dice anche quella privata. Però poi non ha l'obbligo di dover stare in questo rapporto. Quindi è un contrassenso, perché in questo modo cosa succede? Noi naturalmente vogliamo che il limite del 30% venga rispettato, perché è una legge essenziale e importante. Sì. Però dall'altra parte si dovrebbe, visto che c'è il presidente della CRUI... estenderla a tutti. Vogliamo l'occasione. Ne approfitto. È veramente importante far pesare questa cosa. Presidente, se la vorrete far pesare questa cosa anche agli istituti privati? Però, guardi, un'università privata praticamente ha una libertà, diciamo, perché non è una struttura pubblica, quindi è una libertà della però prende soldi dal pubblico, ci dice. Però non prende i soldi, sono gli studenti che hanno la possibilità di poter avere una borsa di studio, perché loro versano una quota della tassazione, rientra nel fondo nazionale per il diritto allo studio, quindi poi il sostegno che viene dato all'università è un sostegno di pochissime risorse. Le deve considerare che il fondo nazionale per le università è poco più di 6 miliardi di euro, di cui solo 50 milioni vanno alle università private, quindi diciamo c'è un rapporto bassissimo. Io penso che il tema centrale non sia tanto quello di discutere sulla tassazione, che sicuramente è importante. Voglio ricordare che da quest'anno c'è una norma che è stata voluta anche dagli studenti della no tax area, che rende nelle università pubbliche gratuita l'università per chi ha un ISEE inferiore ai 13.000 euro, e con delle tasse molto limitate e contingentate per chi sta al di sotto dei 30.000 euro. Quindi insomma, da quest'anno esiste, a patto che sia in corso, perché poi credo che sia giusto che, insomma, che questo beneficio che viene dalla tassazione generale vada per gli studenti, ovviamente, che sono regolari. No, è chiaro. Però in ogni caso, nel ringraziare Luigi Profeta che ha Gaetano Manfredi. Oh, studenti universitari di tutta Italia, forse avete pagato di più entro il 2013, informatevi, oggi il giornale lo mette, ieri il giorno, oggi il giornale apre proprio, dopo la Tari anche l'università, ecco un'altra tassa gonfiata, ecco, o non dovuta. Io ho studiato all'Università di Pavia, sai? Sì. I miei esami di giurisprudenza li ho dati proprio a Pavia. Puoi provare adesso a richiedere indietro le tasse. Era Tremonti ai tempi che insegnava a Pavia. Ti ha insegnato Tremonti? A me no, io era già più, mi sono fermato prima, io Tremonti era, se non sbaglio, uno degli diritto tributario, poi non era il ramo che avevo scelto io. Comunque ringraziamo il professor Gaetano Manfredi, presidente dei rettori italiani, nonché rettore a Napoli, e Luigi Profeta, studente che avrà 180 euro. Beh, 180 euro, Veronica, fanno comodo, si paga metà affitto. Oppure le università potrebbero chiedere di compensare con delle grandi feste universitarie in aula magna. Quello ci si può pensare. Comunque mi sembra che il nostro studente avesse un altissimo livello di consapevolezza, che più dei 180 euro, quello secondo me... frutterà. No, ci chiedono anche come si fa ad avere rimborso, a sapere se uno, insomma, informatevi, appunto, ha detto che con dei click, no? Basta entrare con il codice che ognuno ha la matricola, ecco, per sul sito dell'università e verificare e chiedere se si è pagato di più. Detto questo, adesso che ci abbiamo messo il sigillo noi su questa tematica, come con la Tari, è evidente che faremo fallire tutte le università d'Italia, che dovranno restituire soldi come se non ci fosse domani. Che bello il mio periodo universitario, mi ricordo quelle feste meravigliose dove tornavo a casa sempre da solo. Ma come? Ma perché? Già allora era la piega. Ma dritto, andavi in giro dritto o come Alfio l'Alfiere, uno dei tuoi personaggi, andavi un po' in diagonale? Tornerei a quegli anni subito, devo dire. Subito. Laura, mi ricordo di Laura. C'è un momento di amarezza qui a Milano, Veronica. Vorrebbe ringiovanire, Manera. L'unico al mondo che vorrebbe ringiovanire. Nessun altro, credo. Laura. Chi è Laura? Vuoi dirci nome, cognome e indirizzo? No, solo nome, Laura. Laura, mi ricordo di questa ragazza con la quale studiavo, molto intelligente, molto in gamba. Ah sì, Ma bah. Ci fu una... No, mai niente, neanche un bacio, una nulla. Lezione magistrale. Niente. Una Laura d'onore. Tornerei... Non era quella di Petrarca? No, tornerei indietro per, insomma, invece riuscire almeno a baciarla. A quagliare. Laura, se ci sei, per favore, al 349-238-6666. Laura, fatti viva, perché Manera è in un momento di amarezza compulsiva. Poi è in un compulsiva. Momento così, col metatarso distratto, esatto. È un momento difficile. Andiamo, Laura. Andiamo alla borsa. Laura, pensaci tu, la borsa. I funamboli. Bravi. Blocco amministrativo del veicolo, quindi i genitori non vanno a lavorare, non hanno i soldi perché vanno in permesso non retribuito e per voi i bambini non vengono toccati. Bene, bravi, continuate così. Veronica, io ho un'impresa di pulizie, se ti può interessare, sono Gabriella, Tutto gratis ovviamente, ciao. Veronica, se vuoi l'olio lo paghi. Allora, io non so, a parte che premessa... Quest'ultimo signore è stato sgraziato. Sì, è stato sgraziato. Adesso rispondi a quella leader, però... Gabriella, lei è veramente deliziosa, guardi. Sì, ma cosa può offrire? Rassettare casa a gratis? Questo stavo offrendo, eh? No, io capisco. Cosa pensi che non abbia capito? Ma perché mi hai presa? Io orecchie da mercante le faccio quando dico io. E quindi oggi abbiamo portato a casa una rassettata di casa. Gabriella, questa è una delle più belle offerte che mi potesse fare. Le dirò in assoluto. Io in compenso la posso poi invitare a cena, posso preparare qualcosa, cucinare. A proposito di rassettare casa, mi è venuta in mente una cosa che è capitata proprio quando facevo l'università a Pavia. C'era una ragazza che andava a rassettare la casa di uno studente, il quale poi faceva l'amore con lei e lei veniva pagata così. Vedi che a volte si trovano degli accordi. A proposito degli accordi, di ragazze... il famoso pagare in natura. Questa famosa Laura. No, non era Laura questa. No, Laura perché... non c'è. Me la ricordo ancora. Stavo per farlo io. Sì. Laura non è. Cara Laura, contattami che ho voglia di rivederti. Parliamo dei nostri studi di istituzioni di diritto privato, l'istituto della simulazione. C'è uno straordinario messaggio. Ciao. anch'io avrei voluto baciarti, sono Laura, o meglio ero Laura, ora mi chiamo Rocco. Laura non c'è. Messaggio al 349-238-6666, succede? Allora, devo dire che insomma riscuoto un certo successo con il pubblico Rocco. Maschile. Rocco. Sì, però c'è anche un discorso di monogamia che bisogna considerare. C'è un Michele che ha un diritto di prelazione importante su di te. Effettivamente. Comunque, signori, no, per dire all'ascoltatore di prima, bravi, bravi, fermate i fermi amministrativi alle macchine. Oh, ma sono genitori che possono pagare e scientemente non pagano la mensa, tanto ci pensa il comune. Oh, maleducati, evasori. Soprattutto l'altra volta abbiamo parlato del famoso pane olio e si è detto, ah no, perché allora i genitori devono pagare, la polemica era tutta ma paghi i bambini, è giusto? No, mi sembra che hanno trovato alla Dispoli una soluzione efficientissima. Esatto. Su questo proprio. Però c'è Francesco da Modena che lì da un po' ci vuole dire che cosa sulle mense? Ma volevo dire che praticamente le mense sono un percorso educativo, anche quello, l'educazione alimentare, che quindi dovrebbero essere gratuiti come i libri, perché altrimenti potrebbero costituire un costo sociale. A parte che i libri non sono gratuiti. Sì, perché se tu togli i bambini alle 12:30 sono dei costi sociali perché devi andare a prendere o altro. Invece a scuola è il momento di convivialità, è un percorso educativo. E con il percorso educativo obbligatorio ci deve essere anche il percorso alimentare obbligatorio, perché mangiano quello che scegliono. Ma a scuola. Sono un momento educativo, però non ho capito perché. È certo che va pagato. Il comune non lo deve pagare il cittadino, non lo deve pagare il genitore, perché è educazione. I libri vengono dati gratuitamente come educazione. L'educazione alimentare su quello che mangiano. Dovrebbe essere gratuito. Tanto andrebbero pagati con le tasse comunque. Dovrebbero essere pagati. Ma bisognerebbe creare una tassa ad hoc con la quale poi finanziare le mense. E comunque non mi risulta che i libri siano gratuiti. Almeno io li pago quelli di mio figlio. Una marea di soldi. Abbiamo anche quest'anno tutti sempre. comunque è il momento dei furbi, dei furbetti, dai, ci hanno scritto anche stavolta. Defurbizziamoci. Ma sì, ci ha scritto Vincenzo. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, ci sono? Dobbiamo andare ci di sei, fretta, ci sei. Benissimo, che eccomi, cosa hai fatto allora. Tu? Allora, premetto che mi vergogno tantissimo di questa cosa. Ma tanto è successo tanti anni fa. Si sente dalla voce, dal tremolio. Sì, sono molto timido, infatti. Lo sentiamo anche questo. Cosa combinavi? No, allora parliamo di tanti anni fa, c'era ancora la lira. Praticamente, niente, quanto tempo ho? Così, due minuti, anzi allora, uno e mezzo. Ce la farò. Dunque, niente, non so se voi ricordate tanti anni fa quando c'erano i primi, non so se erano i primi Gratta e Vinci, comunque erano i famosi Gratta e Vinci con le tre carte, praticamente se trovavi i 3-7, i 3-8, vincevi diciamo una cifra, non so, 3-7, 2000 lire, 3-8, 5000, 3-9, 10000. E che facevi? E io che facevo? Praticamente con l'ausilio di un mio compare, visto che siamo in argomento, cosa facevo? Praticamente truccavo questi Gratta e Vinci. C'è da dire una cosa, ai tempi il Gratta e Vinci dovevi comprarlo in un bar e se vincevi dovevi prendere tornare quei soldi. Esatto, in quel bar che c'era dietro un timbro. Noi cosa facevamo? Praticamente io mandavo lui in avanscoperta, lui comprava che ne so, tipo 3-4 Gratta e Vinci, io li falsificavo facendo cosa? Siccome la vincita massima consentita lì per il bar era 70.000 lire, quindi fare 3-10, io trovavo solitamente il Gratta e Vinci con 2-10, poi la terza carta era sempre perdente, io con la pinzetta delle sopracciglia di mia madre e la colla e il taglierino tagliavo il terzo 10 e lo mettevo. Quindi allora, vediamo allora. Fantastico, un collage. Truffa. Sì, un collage, esatto, una truffa chirurgica, truffa, diciamo così. Truffa chirurgica. Non banca, furto, bravura, ma furto, banda organizzata. Allora, ti dico gentilmente dove abita. Tantissimo tempo fa. Allora cosa facevo? Io praticamente non sapevo che in ogni bar ce ne fosse uno nel plico di biglietti. Aspetta un attimo però, perché sta arrivando una... Gentilmente, se può favorire le sue generalità indirizzo, vediamo, fare una visitina. Mi chiamo Antonio e vengo da Potenza. Indirizzo preciso, gentilmente preciso. Vabbè, da Vincenzo, non diciamo da dove, dai, per la simpatia hai vinto il nostro premio defurbizzato. Grazie, che poi è questo, il timbro defurbizzato. Ti faccio notare più. Che è per la simpatia, quindi credi alla tua buona fede, zero Vincenzo, zero proprio. Falsificava i Gratta e Vinci e voi con un amico, quindi truffa organizzata. No, e no, quindi no. Voi cosa facevate? Funamboli, chioccio voi a Radio 24. Potete fare concorrenza a Vincenzo per quanto so. Siete stati furbi? Tra l'altro hai notato che molti sono falsari dei defurbizzati, cioè si applicano per falsificare il biglietto, falsificare il gratta e vinci, anche con perizia. C'è devo anche dire. Uno che ha scritto. Che le pinzette della mamma è tanta sì. roba. C'è eh? Uno che ci ha scritto, uno che aveva falsificato un concerto di Bruce Springsteen, ha detto: falsificherò il biglietto e verrò a vedere Platone domenica allora... da voi al Teatro Manzoni col biglietto riesce, falso. Se ci riesce, giuro. Guarda, vieni ad onore proprio. Quindi, Teatro Manzoni, controlli serrati, per favore, tutti i biglietti italiani, controllare che siano tutti pagati, staccati e tranquilli. No, no, giusto per... vabbè, li avvisavo. Traffico! I funamboli. Ah, Veronica, c'è un messaggio per te. Un grazie, ti adoro tantissimo da Michele da Firenze, che ovviamente... No. Perché hai detto che ha diritto alla primogenitura, diciamo. E certo, mettiamo. Perché chiaramente cerco sempre la di mediare, monogamia. Di tenere buono Leonardo. E alla sì, fine dovremmo incontrarci. Ci penso io. Sì. Dovremmo verificare, io voglio fare da madrina a questo vostro incontro. Sì. E soprattutto fa da Cerbera per chiunque altro cerchi di insidiare Michele da Firenze. Uomini e donne. Uomini e donne. Sai che io ho avuto una fidanzata di Prato e quindi tornerei in zona. Ma lui è Michele da Firenze, è un'altra cosa, non è un'altra persona. Ma perché Leonardo gli parte, sai come quando il nonno dice: ti ho mai raccontato di quella volta che sono andata? Allora, ogni eccolo, vai. Ai miei tempi ho conosciuto una ragazza, la Benita, una bella ragazza sì, col Leo, seno. Me l'hai già raccontato 12 volte Benita. Però. La Benita, una bella ragazza col seno che le spuntava da sotto la gonna. Sì, vabbè. La storia bella... di Benita, dimmi nonno, dimmi. Dici nonno. No, vabbè, il nonno se n'è andato, l'abbiamo cacciato, più rispetto per gli anziani però, Veronica. Anche perché è arrivato qui di colpo facendo irruzione dal suo Veneto, non no, indipendente, no, Battista. No. Anche perché bisogna parlare dei problemi veri della vita, no? Oh, Battista. Finalmente sei arrivato tu, Battista. Certo. Anche perché anch'io, come tanti imprenditori, sono andato a produrre all'estero, mina. Sì. Perché in Italia lo Stato te soffoca delle tasse, che poi questi qua delle tasse te controlla troppo. Mentre i padroni del mondo vanno ai paradisi fiscali, i poveri cristi come sottoscritto e tartassati, e invece quei dei cantanti, no? I U2, come si chiama il cantante degli U2? Bono. Quello è un altro. Ma nei paradisi fiscali, sai perché si chiama U2, Mina? Perché significa uomo 1 e uomo 2. Uomo 1 è quello che fa le prediche di comportarsi bene. Uomo 2 è quello che fa evasione fiscale. Non che mi viene a fare le prediche l'albono, ma quello vero è secondo, anche, lo dico anche da tanto gentile, tanto onesta pare. E sì. Intanto qui delle tasse e controlli i poveri cristi come sottoscritto, anche fuori dai bar se il barista ha fatto scontrino. E se non c'è quello delle tasse fuori dal bar, c'è sempre extracomunitario che ti chiede moneta. Che ormai il bar al caffè costa 2 euro, il primo per il caffè, il secondo dare extracomunitario fuori dal bar. Ormai extracomunitario fuori dal bar va messo nel paniere Istat, perché ormai è diventato costo fisso per gli italiani, Mina, capisci? I bar ormai è tutti dei cinesi, e i cinesi non fanno il certificato di morte quando muoiono i parenti, figurati se fanno scontrino al bar. Chiedi scontrino ai cinesi, che poi ecologisti si lamenta se viene disboscata l'Amazzonia. Allora bisogna mettersi d'accordo, o si fanno gli scontrini al bar oppure si salva l'Amazzonia, Mina. Non si può avere a botte piena anche la moglie incinta, no? Poi non sa neanche dov'è questa Amazzonia, Mina. Che poi le tasse a cosa servono? A mantenere quei della casta, i politici, che pensano solo a far entrare stracomunitari in Italia con lo ius solo. Che io, no, niente contro i negri, facciamoli anche entrare tutti a casa nostra, però poi non lamentiamoci se c'è lavoro irregolare, vado a chiedere a loro quando vedono la droga o scontrino, no, i sottoscritti, hai capito, Mina? Che poi quando vado a Equitalia, populismo è un... non è populismo, è la realtà dei fatti, Mina. Pochino. Basta, sei buonista, sei uno di quei buonisti, tu anche l'altra da Roma, capisci? Sì, Veronica un po' sì, io sono buonista, sì, e mondialista, mentre vado a Equitalia, a Equitalia a pagare le tasse, sono fuori casa, arriva i zingari e mi rapino la casa, ma tra due ladri non so quello è peggiore, anzi secondo me Equitalia e i zingari si mettono d'accordo. Equitalia dice a zingari: guarda che oggi che ho disgraziato viene a pagare le tasse, perciò tu zingaro entra in casa e togli i monili, tu li hai i monili, li hai tutti i monili, anche argentini, perciò ecco. Unica cosa da fare è resistere con unghie e con i denti, altrimenti il mercato ti strangola, ti soffoca, ti strigola. Parola di Battista, best imprenditore from Cavaillon Veronese. From Cavaillon Veronese. È internazionale. È facile per voi buonisti farla sempre facile, no? Privilegiati della casta e giornalisti privilegiati. Ce l'ha con te forse, Veronica? Non secondo so. Me ce l'ha, no, con me. Devo dire, sai, che sono arrivati ancora tanti messaggi a dire: ma insomma, avete sdoganate le truffe, questa era una truffa. Allora, noi bella non sdoganiamo... gente, continuate a dargli voce. No, noi non sdoganiamo nessuno. Vogliamo raccontare quei momenti in cui anche gli italiani, insomma, hanno fatto i furbi, facendo a volte anche quelli che sì, erano reati all'epoca. E perché li defurbizziamo? Perché ironizzare voglio... sulla furbizia di un paese, tentare di far vedere che ce l'abbiamo, purtroppo in parte del nostro costume, nei nostri geni queste tendenze, è un modo per cercare anche così, mettendolo un po' alla berlina, di... Di dire, non si fa, dai, fai un po' la moralizzatrice. Esorcizzare, no, è perché poi mi becco qualche altra ista. Che mi dai, becco? Anche tu, Leonardo. Moralista. Ma no, che tra l'altro è tutta colpa di Leonardo. Colpa è lui mia, che un giorno ha inventato mia. questa idea. Adesso, sì. Adesso come te ne esci con le accuse di... Ma me ne esco che a volte raccontano degli episodi anche divertenti. Quindi siccome è una cosa quindi... che viene stigmatizzata tutti i giorni da noi, che però insomma loro confessano, io dico ben venga, perché ha questa funzione catartica. Noi li defurbizziamo e quindi li riportiamo a una normalità, li diamo loro una verginità, insomma, no, eh. Oltretutto ci hanno detto che siamo diseducativi, noi non abbiamo mai preteso di educare nessuno. No, infatti, ma pensate che Veronica Gentili possa riuscire a educare qualcuno? Credete che io possa mai essere in grado di educare qualcuno? Abbiate pazienza, ovviamente esatto. No. Abbiate un attimo di pazienza e insomma... Cercate di capirci. Allora, mi ricordo quella volta, ecco, ai miei tempi, la Veronica, sì, con la Benita. Allora, ecco. Dai. Ridimmi nonno, andato... quella volta che la Benita che cosa ti disse? Sono andato dalla Benita e ci ho detto, Benita, sì, può salire su a casa mia che faccio vedere la mia collezione di cartelle cliniche? Che bello, no? No, può continuare, ci racconti qualcos'altro. Sì, no? Allora, abbiamo qua altri 10 minuti, prego, prego. E la Benita mi ha detto, le cartelle cliniche non mi interessano, però se vengo su a vedere l'ultimo dei Moicani...